Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Io sono Marta. Io sono Elisa. Eleonora. E abbiamo anche una special guest, Bianca. Ciao a tutti. Ciao Bianca, benvenuta anche a te. Che emozionale, perché è la prima volta che parlo in radio. Esatto. Però si scioglie, tutto si scioglie. Oggi parleremo di un tema che non è nuovo, però è giusto parlarne ancora, che è quello appunto delle carceri. Quindi adesso faremo magari una breve introduzione di quella che è la situazione attuale e poi dopo parlerò nello specifico dei progetti che ci coinvolgono. Adesso ovviamente le carceri in radio ne abbiamo già parlato altre volte, però la situazione in questo caso anche fortunatamente cambia sempre. Adesso è cambiata in modo particolare, soprattutto negli ultimi mesi si vede molto il cambiamento per via della sentenza Torreggiani. La sentenza Torreggiani è una sentenza a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e che è stata veramente tanto importante a livello di giurisprudenza, perché è stato il primo caso vero e proprio affrontato da una corte che potesse effettivamente sanzionare il nostro paese sul sovraffollamento. E in questa sentenza appunto la corte ha condannato l'Italia per sulla base della violazione dell'articolo 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo per trattamenti inumani e degradanti nella condizione in cui si fanno vivere i carcerati in Italia, perché di fatto le carceri sono sempre da noi, sono sempre state eccessivamente sovraffollate e detenuti si trovavano a vivere in spazi assolutamente non idonei alla vita personale di chiunque. Per questo motivo, soprattutto adesso, si vedono poi i cambiamenti, perché quando ci fanno pagare, ovviamente ci viene voglia di sistemare le cose. Quindi adesso le nostre esperte, che sono andate anche a una conferenza, ci dicono i cambiamenti nei numeri. Sì, infatti mercoledì io e la Bisa siamo andati alla presentazione del resoconto annuale di Antigone. Che Antigone è un'associazione che si occupa chiaramente principalmente carcere e come osservatore, uno degli osservatori delle situazioni carcerarie italiane, sia dal punto di vista della salute ma in generale proprio della vita all'interno delle prigioni. E mercoledì appunto presentava il resoconto annuale, dove ci dicevano i dati sono migliorati, perché nel 2013 le carceri italiane avevano veramente una situazione imbarazzante. Infatti con 42.000 posti c'erano 64.000 detenuti, quindi il problema di sovraffollamento è veramente pazzesco. Adesso invece i posti sono aumentati, perché siamo arrivati a 54.000 e i detenuti, dopo tutti i DDL svuota carceri, sono diventati a 49.000, quindi il problema non si è proprio risolto, perché chiaramente in Italia sono questi dati, ma poi nelle carceri specifiche ci sono ancora dei problemi di sovraffollamento. In Emilia Romagna non ne abbiamo, ma nelle Marche le carceri sono stracolme. Sì, no, infatti era questo il discorso principalmente della conferenza in cui hanno parlato il garante dei diritti dei detenuti della regione Emilia Romagna e poi in specifico di Parma, perché Parma è un carcere diciamo molto peculiare e emblematico di una situazione carceraria tendenzialmente negativa. Quello che è appunto emerso dal resoconto di Antigone è che miglioramenti ci sono, però ecco, è soltanto un primo passo e chiaramente deve essere l'input per ulteriori miglioramenti. Detto questo, io manderei una canzone e per poi riprendere la trasmissione. Che canzone mandiamo? Good Times di Sam Cooke. Take all night long, one more time. Come on and let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our souls. If it take all night long, gotta tell you, evening sun is sinking low. The clock on the wall says it's time to go. I got my plans, I don't know about you. Tell you exactly what I'm gonna do. Get in the groove and let the good time roll. I'm gonna stay here till I soothe my soul. If if it take all night long. Yeah, everybody let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our souls. If it take all night long. Yeah, it might be 1 o'clock and it might be 3. Time don't mean that much to me. I felt this good since I don't know when. And I might not feel this good again. So come on and let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our souls. If it take all night long. And all night. All night. And all night. All night. And all night. All night. And all night long. All night. Somebody said it might take all night. All night long. All night. And all night. All night. And all night. All night. So come on and let the good time roll. We gon' stay here till we soothe our souls. If it take all night long. Allora, adesso abbiamo parlato di sovraffollamento, quindi visto che sembra che la situazione stia migliorando, c'è stata sentenza Torreggiani, Italia condannata, tutto bene, diminuiscono i detenuti nelle carceri, quindi adesso nelle carceri si sta benissimo, è una figata? Cioè, sì, tutti veramente i detenuti... è un posto bellissimo, no, chiaramente ero ironica e no, se lo sconsiglio per le vacanze. È divertente come la Marta ci tenga a precisare, non difendete, è che è abituata, cioè, fa matematica e quindi chiaramente no. Non è abituata a frequentare persone particolarmente allegre e o ironiche. Forse perché parlo con la Bisa, quindi voi immaginatevi quanto io mi premuri di spiegarle bene bene tutto. Vabbè, come sempre in di trasmissione dove ci sono io finisce con offendermi. Però vabbè, non forse importa. Forse dovremmo fare una rubrica proprio insulta, esatto. La Bisa io, e aprirla. Io comunque vabbè, andiamo avanti con l'argomento che è sicuramente più interessante e più interessante. Ma non abbatterti così. Però essendo che lo è, direi allora. Adesso abbiamo perso il filo perché è troppo emozionante la vita. Sto dicendo che in realtà la situazione carceraria ha subito miglioramenti, ma non è ancora una situazione ottimale. Sì, per esempio, per citare un altro dei problemi è quello delle ore in cui i carcerati effettivamente non fanno nulla, stanno lì e non hanno, cioè hanno tanto tempo a disposizione, ma tanto tempo ne perdono. È migliorata questa situazione perché, per esempio, adesso le celle rimangono molte più ore aperte per tutti, infatti per tutti i detenuti che sono ritenuti persone non pericolose le loro celle sono aperte almeno 8 ore al giorno. Chiaramente questo non è sempre positivo o cioè sempre ben vissuto dai carcerati perché comunque loro non sono abituati sempre a lasciare le loro cose e magari hanno paura che gli vengano rubate le loro poche cose e magari non escono neanche dalla cella. E no, e poi sempre alla conferenza che dicevamo poc'anzi di Antigone. Rita, perché quando uso delle parole un pochino più serie sembra che... Vabbè. Ma infatti Visa siamo tutte sconvolte. Io ci provo. Vabbè, scusate, quello che stavo cercando di dire è che anche i tentativi appunto di istituire delle mense non sono stati così positivi perché i detenuti non sono abituati a stare tra di loro. Quale può essere una soluzione? Sicuramente è anche incentivare i progetti, le attività di lavoro comuni. Ed è proprio questo il problema, che adesso come adesso di progetti, soprattutto di lavori, ce ne sono ben pochi e la maggior parte dei progetti sono tenuti da associazioni di volontariato, ma comunque di progetti ce ne sono ancora troppo pochi. Per farvi capire la situazione citerei le parole di uno dei relatori che ci ha detto che secondo lui i carcerati si possono, cioè sono passati dalla condizione di osservatori di soffitti a quella di passeggiatori di corridoi. Sì, uno dei, diciamo, dei limiti del che preclude a ai detenuti partecipare all'attività è il fatto di non stare bene con se stessi e questo non viene tenuto conto perché lì nella teorica nel momento in cui offri delle attività c'è la possibilità appunto di seguirle senza tener conto invece dell'atteggiamento interiore che possono vivere i detenuti perché chiaramente sono attività ludiche sicuramente di così dire di intrattenimento però non stando bene con se stessi perché non hanno un lavoro e quindi non hanno una dignità propria, che è data da un denaro, da un patrimonio proprio, è più difficile interagire con gli altri nel momento in cui ti, appunto, non stai bene con te stesso. E l'elemento fondamentale del lavoro, diciamo, non è tuttora forse preso così tanto in considerazione, e forse potrebbe essere un inizio di una soluzione più efficace di rieducazione, ecco, anche del detenuto, insomma, di dargli una dignità, cioè dare la dignità a una persona mette anche nella condizione, appunto, di saper rispettare la dignità degli altri, almeno come la vedo io, poi opinione mia, insomma. Bene, direi che abbiamo inquadrato la situazione generale. Dopo parleremo dei progetti che più ci interessano, perché ne facciamo parte, ma prima lancerei una canzone. Visa, la sì, abbiamo parlato del tempo, del tempo appunto passato in carcere, e che è molto più lento di quello che probabilmente viviamo noi, percepiamo noi. Questa è una canzone che non parla del tempo, però a me mi ci fa pensare, per cui la lanciamo. È di Molteni e sentite la corallo. L'equilibrio che mi dai, mio malgrado, mi appartiene. C'è chi cade, chi rinviene, vomita nel tuo corpo geroglifico. Bentornati di nuovo in trasmissione, e avevamo già detto all'inizio, appunto, a puntata, che qui con noi c'è un ospite per noi speciale, che è appunto la Bianca. Perché? Perché la Bianca è qui? Perché appunto fa parte del progetto di cui a breve si parlerà, di come tutor appunto universitario all'interno del carcere della Dozza. Ciao Bianca, benvenuta a Luce delle Tenebre, è la tua prima volta e ne sono molto contenti di averla qui. Bianca, questo progetto come nasce? O meglio, l'università all'interno del carcere probabilmente è qualcosa che può suonare nuovo ai nostri ascoltatori, il fatto che vi sia un'università all'interno di un carcere. Sì, indubbiamente, ci sono già stati altri episodi di questo genere in altre carceri italiane, per esempio a Torino sono molti anni che è attivo un polo di istruzione all'interno delle carceri. Anche l'Alma Mater ha intrapreso questa iniziativa alcuni anni fa, e adesso con Libera si è ben pensato di portare il nostro aiuto all'interno delle carceri con un'attività di tutoraggio. E ai detenuti è data la possibilità di iscriversi ad ogni tipo di corso, ad ogni tipo di facoltà che non richieda la presenza obbligatoria, e di conseguenza, nonostante la gran parte faccia giurisprudenza, si trovano detenuti che studiano qualsiasi materia, e molte volte, non avendo l'approccio diretto con un professore, non potendo mandare una mail per delle spiegazioni, anche la cosa che per noi può essere più semplice come iscriversi a un esame invece diventa molto difficoltosa. Ovviamente. E quindi qui subentriamo noi, ci siamo ben organizzati a coppie, andiamo a fare queste attività di tutoraggio. Poi c'è chi vuole vedermi come una sanzione accessoria, visto che posso andare a fare ripetizioni con me, e tu lo saprai bene, con quello che abbiamo studiato magari potrei veramente essere presa. Diciamo che ha fatto tirocinio dando ripetizioni prima a me e poi passata ai detenuti. E no, e si è trovata meglio. Esatto. Sì. Darti soddisfazione. Sempre molto carini. Io esco dalle trasmissioni tutte volte con un'autostima molto, molto forte. Però detto questo, stavamo appunto parlando con la Bianca di questo progetto che è iniziato ormai da... Sono qualche mese, a dicembre si è avviata l'idea, ci sono state tutte le autorizzazioni del caso, perché appunto non è che una persona la mattina si sveglia e dice va bene, andiamo alla dozza. Nonostante abbiamo le autorizzazioni, ogni tanto la fila, la burocrazia per entrare in ingresso, insomma le cose non ce le rende facili. Sono qualche mese ormai, un paio di mesi direi che siamo operativi. Ovviamente ancora un'attività da perfezionare, però sembra... Sì, diciamo che è un primo tentativo, ed è un progetto che è nato anche dall'impulso del polo universitario all'interno del carcere, perché appunto l'università, come ci ha anticipato già Bianca, e il carcere ad Ozza hanno una convenzione ormai dal 2001 con l'idea appunto di far studiare i detenuti interessati all'università all'interno del carcere di Bologna sotto l'etichetta di Alma Mater. E però ci sarà l'inaugurazione questo, no, il 27 maggio, giusto? Sì, adesso si è creato un polo, un settore per i detenuti studenti. E quindi ora vivono tutti insieme in quest'ala, in cui non ci sono solamente i detenuti che studiano, ma anche detenuti che si occupano di altro tipo di attività, come per esempio c'è la squadra di rugby, che è piuttosto famosa, ecco, all'interno. Diciamo che la Bianca ci teneva a dire questa cosa qui. Hanno infatti anche un regolamento diverso, per cui possono stare, insomma, hanno delle libertà maggiori. Fra poco mi pare che installeranno anche la possibilità di connettersi a internet, sarà però una connessione protetta e solamente per il sito dell'università, però in questo modo si potranno accelerare un sacco di pratiche. Io volevo farti una domanda più personale, che tu già odierai, e volevo chiederti perché hai scelto di fare questo progetto e quali sono anche state le tue impressioni entrando in carcere, perché spesso si sente parlare del carcere ma pochi hanno davvero la percezione di cosa sia e di cosa voglia dire entrarci dentro. È vero, io parto dalla spiegazione noiosa in quanto studente di giurisprudenza. Mi sono interessata, esatto, ahimè, così, ho anche questa, mi sono interessata alla tematica, quindi a un settore di cui mi ero, insomma, informata personalmente, mossa anche da curiosità, se vogliamo, non solamente dallo spirito di volontariato, di fare del bene. Ero anche curiosa di vedere con gli occhi diversi come funziona questo piccolo mondo, perché alla fine è un altro mondo con tutti i problemi che potremmo avere fuori, ci sono anche dentro e anzi sono amplificati. L'esperienza, devo dire, è positiva. E certo si nota tanto che queste persone hanno molta voglia di parlare, quindi delle volte si fa anche difficoltà a tenere la concentrazione su quello che è l'argomento noiosissimo di diritto privato. Quindi sì, è chiaro che appena hanno la possibilità di un contatto umano, esatto, ne approfittano. Esattamente. E non si può biasimare per questo. No, assolutamente. Ringraziamo Bianca per essere venuta qua e averci sopportato per tutto questo tempo. Ringrazio voi. Direi che ringrazierei voi per l'imboscata, però vedremo se si ripeterà. Certo, quando meno te lo aspetti. E ora parliamo di un altro progetto. Ele, lascio la parola a te, ti faccio introdurre e presentare Altro Faccio Diritto. Tutto io, benissimo. E Altro Diritto è un altro progetto di volontariato che si realizza nel carcere di Bologna della Dozza. È un progetto che in realtà è nato a Firenze 10 anni fa circa, e a Bologna c'è da un po' meno tempo, quindi però è già abbastanza avviato. L'attività che viene fatta ad Altro Diritto è un'attività un po' diversa da quella del tutorato universitario, nel senso che si va a fare consulenza legale di base ai detenuti. Consulenza legale che non significa entrare nel loro procedimento o fare qualcosa da avvocato, perché non lo possiamo fare, però diciamo aiutare nei bisogni di tipo legale più immediati dei detenuti, come per esempio il rinnovo dei permessi di soggiorno, richieste particolari per il carcere, perché comunque il detenuto, soprattutto definitivo, che si trova in carcere molto spesso viene abbandonato dall'avvocato, non perché l'avvocato sia una persona orribile, ma perché molto spesso i detenuti che non hanno soldi e che non possono pagare l'avvocato non è che vengano particolarmente seguiti. Per questo motivo c'è abbastanza bisogno, diciamo, di che si dia un sostegno di questo tipo alle persone che si trovano in carcere anche per molto tempo e magari hanno dei bisogni che le persone all'esterno non si immaginano, perché chiaramente una persona che è libera di andare dove vuole può fare più o meno qualsiasi cosa, mentre un detenuto ha restrizioni di qualsiasi tipo, cioè anche per un rinnovo della patente chiaramente un detenuto non lo può fare. Cosa se ne fa un detenuto a patente? Effettivamente niente, però quando esce potrebbe servirgli, perché ci è capitato anche questo, quindi facciamo l'esempio. E quindi sì, questa attività, nell'altro diritto ci sono però anche i medici. Io ho parlato da giurista perché siamo egocentrici, però ci sono anche dei medici che fanno invece consulenza medica di base, e anche questo diciamo che è un problema a parte, non ne parlerò io. Potremmo farci un'altra puntata sulla sanità, sui problemi sanitari in carcere. Ce ne sono tanti comunque. Sì, probabilmente oltre alla puntata sui problemi della sanità possiamo fare davvero tantissime altre puntate sui problemi di tutto il carcere, ma sfortunatamente il nostro tempo è finito, quindi lancio l'ultima canzone e poi ci risentiamo col buffet. La canzone è Jolie Coquine dei Caravan Palace e mi scuso per il mio pessimo francese. eccoci arrivati all'attesissimo momento della rubrica Buffier. Ora Bianca, che è entrata nel gruppo, nel team, è super carica, ci presenta una serata di stasera all'Estragon. Sì, sono ancora qui, non vi siete liberati di me. Questa sera volevo dire che c'è una serata electro swing, swing all'Estragon, costa poco, ci vediamo lì. E chiaramente fondamentale sarà domenica la festa della zuppa al Pilastro, in cui chiaramente noi andremo tutte, io non vedo l'ora, siamo tutte stra cariche. Tranne Bianca che avrei posto dell'Estragon da stasera, però vabbè, ne possiamo fare a meno. Grazie di essere stato con noi, io vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Anche le altre, insomma, vi saluto.